Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Mi coricai sulla paglia, ma non mi riuscì di prendere sonno. Pensavo agli avvenimenti della giornata. Ciò che più mi aveva colpito erano i modi gentili di quella gente. Desideravo ardentemente unirmi a loro, ma non ne avevo il coraggio. Ricordavo troppo bene il trattamento che mi era stato riservato dai barbari abitanti del villaggio la sera precedente, e decisi che qualunque linea di condotta avessi giudicato opportuno di seguire in futuro, per il momento sarei rimasto nel mio rifugio a osservare e a cercare di scoprire i motivi delle azioni dei miei vicini. Il mattino seguente gli abitanti della casa si alzarono prima del sorgere del sole. La fanciulla mise tutto in ordine e preparò da mangiare, e il giovane, dopo la prima colazione, uscì. La giornata trascorse allo stesso modo della precedente. Il giovane rimase sempre fuori a lavorare, la fanciulla si dedicò a laboriose occupazioni casalinghe. Il vecchio, che, come non tardai ad accorgermi, era cieco, impiegò il tempo a suonare o a meditare. Nulla può essere paragonato all'amore e al rispetto dei due giovani per il loro venerabile compagno. Ogni premura, ogni attenzione gli era rivolta con gentilezza, ed egli li ricompensava con dolci sorrisi. Eppure non erano felici. Spesso il giovane e la sua compagna si appartavano e sembrava piangessero. Non capivo il perché della loro infelicità, ma la cosa mi affliggeva profondamente. Se creature così gentili erano infelici, non era strano che lo fosse un essere imperfetto e solitario come me. Soffrivano. Avevano una casa deliziosa, poiché tale appariva ai miei occhi, e ogni comodità, un fuoco per scaldarsi se avevano freddo, i cibi prelibati se avevano fame. Avevano ottimi abiti e, cosa ancora più importante, godevano della reciproca compagnia, e ogni giorno si scambiavano sguardi di tenero affetto. Che significavano le loro lacrime? Esprimevano vero dolore? Non mi riuscì sulle prime di rispondere a queste domande, ma un'attenzione ininterrotta e il tempo mi spiegarono molte cose che mi erano apparse enigmatiche. Trascorse molto tempo prima che potessi individuare una delle cause di disagio della famiglia. Era la povertà, che li affliggeva duramente. Il loro nutrimento era costituito soltanto dalle verdure dell'orto e dal latte di una unica mucca, che ne produceva assai poco durante l'inverno, quando i suoi padroni faticavano a procurarsi il foraggio per sostentarla. Spesso, credo, pativano gli acuti morsi della fame, specie i due giovani, che sovente mettevano del cibo nel piatto del vecchio senza avanzare nulla per sé. Questo tratto di gentilezza mi commosse molto. Avevo preso l'abitudine di sottrarre la notte parte dei loro viveri per avere di che mangiare, ma quando mi accorsi che ciò facendo imponevo agli altri una privazione, me ne astenni e vissi delle bacche, delle nocciole e delle radici che raccoglievo in un bosco vicino. Trovai anche un altro modo per aiutarli nelle loro fatiche. Notai che il giovane trascorreva gran parte della giornata a raccogliere legna per il focolare. Durante la notte mi impossessavo spesso dei suoi attrezzi, che avevo imparato presto ad adoperare, e portavo a casa legna sufficiente per il consumo di diversi giorni. Ricordo che la prima volta la fanciulla, aprendo la porta al mattino, parve molto stupita alla vista di un così gran mucchio di legna fuori casa. Pronunciò qualche parola a voce alta e il giovane la raggiunse. Si dimostrò anch'egli sorpreso. Notai con piacere che quel giorno non andò nel bosco e che passò a fare riparazioni nella casetta e a coltivare l'orto. A poco, feci una scoperta, ancora più importante. Mi accorsi che quelle persone avevano un metodo a base di suoni articolati per comunicarsi impressioni e sentimenti. Vidi come tali suoni provocavano di volta in volta piacere o dolore, sorriso o tristezza nell'animo e nell'aspetto di chi ascoltava. Era davvero una scienza divina e sentii ardentissimo il desiderio di possederla. Ma restavo deluso ogni volta che facevo un tentativo. Parlavano in fretta e poiché le parole che pronunciavano non avevano legame apparente con oggetti visibili, non ero in grado di scoprirne il significato, ma a prezzo di una applicazione costante, dopo essere rimasto nel mio rifugio il tempo necessario a molte rivoluzioni di luna, individuai i nomi di alcuni fra gli oggetti più frequenti nel discorso, appresi ad applicare le parole fuoco, latte, pane e legna. Imparai anche i nomi dei miei vicini. Il giovane e la sua compagna avevano ciascuno parecchi nomi, mentre il vecchio ne aveva uno solo: padre. La fanciulla veniva chiamata sorella o Agata. Il giovane Felix, fratello o figlio. Non posso descrivere la gioia che provai quando appresi i concetti legati a ciascuno di questi suoni e fui in grado di pronunciarli. Distinguevo anche molte altre parole, senza però riuscire a capirle o a collegarle. Per esempio, buono, carissimo, infelice. Thank you. trascorsi in questo modo l'inverno. I miei vicini mi divennero molto cari e per i loro modi gentili e per la loro bellezza. Mi sentivo depresso quando erano infelici e partecipavo alla loro gioia quando erano lieti. Vidi pochi esseri umani oltre a loro, e se per caso qualcuno entrava nella casetta, i suoi modi rudi e volgari mi convincevano sempre più della natura superiore dei miei vicini. Notai che il vecchio si sforzava spesso di incoraggiare i figli, come avevo sentito che li chiamava, a scacciare la malinconia. Parlava allora con accento lieto e con un'espressione di bontà che riempiva di gioia anche me. Agata lo ascoltava con rispetto e qualche volta i suoi occhi si riempivano di lacrime che ella cercava di asciugare di nascosto, ma notai che di solito, dopo aver ascoltato le esortazioni del padre, il suo aspetto e la sua voce erano più allegri. Con Felix non era così. Era sempre il più triste dei tre, e anche ai miei sensi poco esperti era chiaro che aveva sofferto più degli altri, ma se il suo aspetto era il più cupo, la sua voce era più lieta di quella della sorella, specie quando si rivolgeva al vecchio. Potrei citare innumerevoli episodi che, per quanto insignificanti, rivelarono il carattere di queste persone. In mezzo alla povertà e al bisogno, Felix offrì con gioia alla sorella il primo fiorellino bianco che fece capolino dal suolo coperto di neve. Di buon mattino, prima che la fanciulla si alzasse, egli spazzava la neve che ostruiva il sentiero della stalla, attingeva acqua dal pozzo e portava la legna dal deposito, dove con suo perpetuo stupore trovava la riserva sempre rinnovata da una mano invisibile. Di giorno, credo, lavorava per qualche proprietario dei dintorni, perché spesso usciva e tornava solo all'ora della cena, senza però portare legna. Altre volte lavorava nell'orto, ma essendoci poco da fare, nella stagione fredda sovente leggeva al vecchio e ad Agata. Questo leggere mi lasciò sulle prime molto perplesso, ma presto mi accorsi che egli pronunciava molti degli stessi suoni sia quando leggeva che quando parlava. Supposi quindi che egli trovasse sulla carta segni che stavano per la parola e che lui comprendeva, e provai un desiderio ardente di conoscerli. Ma com'era possibile, se neppure conoscevo i suoni che essi stavano a indicare? In questa scienza, tuttavia, feci sensibili progressi, anche se insufficienti a seguire ogni genere di conversazione, per quanto cercassi di applicarmi con attenzione. Capivo facilmente, infatti, che pur desiderando ardentemente svelarmi ai miei vicini, ogni tentativo in questo senso mi sarebbe stato impossibile se prima non fossi diventato padrone del loro linguaggio. La qualcosa avrebbe anche potuto far sì che essi trascurassero la deformità del mio aspetto, di cui mi ero reso conto per il contrasto che continuamente mi si presentava dinanzi agli occhi. Avevo ammirato le forme perfette dei miei vicini, la loro grazia, la loro bellezza, la delicatezza dei loro lineamenti. Ma come ero rimasto atterrito quando mi ero visto riflesso in una pozza di acqua limpida. Avevo fatto dapprima un balzo indietro, incapace di credere che fossi davvero io quello riflesso nello specchio. E quando mi ero convinto di essere in realtà il mostro che sono, mi ero sentito invadere da un amaro senso di mortificazione e di scoraggiamento. Non conoscevo ancora appieno i fatali effetti della mia deformità. Quando il sole si fece più tiepido e la luce del giorno più duratura, la neve scomparve e io vidi gli alberi spogli e la terra nera. Da allora Felix fu più occupato e scomparvero i penosi sintomi di carestia. Il loro cibo, come constatai in seguito, era semplice ma sano. E potevano procurarsene a sufficienza. Molte nuove piante spuntavano nell'orto e questi segni di abbondanza aumentavano a mano che la stagione si inoltrava. A mezzogiorno il vecchio usciva a passeggiare appoggiandosi al figlio. Se però non pioveva, come seppi, si diceva quando il cielo versava acqua. Ciò avveniva di frequente, ma un forte vento asciugava subito la terra e il tempo si faceva sempre più bello. La mia vita nel nascondiglio era monotona. Nel corso della mattina seguivo l'andirivieni dei miei vicini, poi quando si allontanavano per dedicarsi alle loro occupazioni dormivo. Passavo il resto del giorno a osservare i miei amici. Quando si ritiravano per riposare, se c'era la luna o era una notte stellata, uscivo nei boschi a raccogliere cibo per me e legna per la casa. Al ritorno, ogni volta che era necessario, spazzavo il sentiero dalla neve e accudivo a tutti quei piccoli lavori che avevo visto fare da Felix. Seppi poi che tutte queste faccende, condotte a termine da una mano invisibile, li stupivano grandemente, e un paio di volte in quelle occasioni li sentii pronunciare le parole «spirito benigno, meraviglioso». Ma allora non conoscevo il significato di quei termini. I miei pensieri si facevano più attivi ogni giorno e anelavo di conoscere i motivi e i sentimenti di quelle amabili creature. Volevo sapere perché Felix apparisse così abbattuto e Agatha così triste. pensavo, maledetto pazzo, che fosse in mio potere ridare la felicità a queste persone che tanto la meritavano. Quando dormivo o ero assorto, i lineamenti del padre cieco, della buona Agata, del caro Felix, mi aleggiavano dinanzi agli occhi. Guardavo loro come a esseri superiori che avrebbero deciso del mio destino. Mi raffiguravo in mille modi il momento in cui mi sarei presentato a loro e il modo in cui mi avrebbero accolto. Immaginavo che avrebbero dapprima provato un vivo disgusto, poi i miei modi cortesi e le mie parole concilianti mi avrebbero guadagnato la loro benevolenza e infine il loro affetto. Questi pensieri mi riempivano di giubilo e mi spingevano ad applicarmi con rinnovato ardore allo studio del linguaggio. I miei organi erano rozzi, sì, ma agili, e per quanto la mia voce fosse molto diversa dalla dolce musica dei loro accenti, pure riuscivo a pronunciare con una certa facilità le parole che conoscevo. Era come la storia dell'asino e del cagnolino da salotto. L'asino, pieno di buone intenzioni, anche se le sue maniere erano rozze, meritava certo un miglior trattamento che non fossero calci e insulti. I benefici acquazzoni e il tepore fecondo della primavera mutarono assai l'aspetto della terra. Gli uomini che prima di questa trasformazione sembravano essersi nascosti nelle caverne si sparpagliarono dappertutto e si dedicarono ai lavori agresti. Gli uccelli cantavano con tono più gioioso e le foglie cominciavano a spuntare sugli alberi. Felice, felice terra! Fino a poco tempo prima, cupa, umida e malsana, e ora dimora degna degli dèi. Il mio animo fu rinfrancato dall'aspetto incantevole della natura. Il passato era scomparso dalla mia memoria, il presente sereno, il futuro abbellito da fulgidi raggi di speranza e da promesse di gioia.